Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. I cosiddetti nanofluidi, beccatevi anche quest'ultimo neologismo, anche se in realtà non è proprio un neologismo, sono fluidi che incorporano nanoparticelle grazie alle quali acquisiscono delle particolari proprietà. Ebbene, lo scorso 10 novembre il Centro Interdipartimentale di Ricerca Levi Cases dell'Università di Padova, un centro specializzato in ricerche multidisciplinari in ambito energetico, ha organizzato un incontro per fare il punto sullo sviluppo di certi particolari nanofluidi che hanno delle specifiche proprietà ottiche e che potrebbero essere usati per una nuova generazione di collettori solari. Ne parliamo con il direttore del centro Levi Cases, il professor Alberto Bertucco. Buonasera Bertucco. Buonasera, buonasera. Allora, senta, che cos'è un nanofluido, in cosa consiste e quali sono queste speciali proprietà di cui anche voi avete parlato nel convegno? Quindi un nanofluido è un fluido, un'acqua per esempio, che contiene delle polveri molto piccole, appunto delle nanopolveri. Ci sono tante nanopolveri, però quelle che in particolare interessano l'applicazione su cui abbiamo fatto il convegno sono delle forme a fiore, ad aglia, cioè con tante punte, che conferiscono a questi nanopolveri un'enorme area superficiale. Ecco, queste polveri sono in grado di assorbire tutta la luce che gli arriva. Sono come dei fiocchi, quindi, no? Come dei fiori, addirittura, appunto lei li descriveva, microscopici in realtà, anzi più che microscopici, no? E quindi sono neri e assorbono tutta la radiazione luminosa che gli incide sopra. E ne serve neanche poco di questa polvere, vero? Per trasformare l'acqua in questo straordinario assorbitore, quindi, di luce. Sì, certamente, siccome hanno una superficie molto elevata. Ecco, la dica che è impressionante. Più di 1200 metri quadri per grammo. Okay. Ne bastano, grosso modo, 50 grammi in un metro cubo di acqua. Quindi 1000 litri di acqua contro 50 grammi di questa polvere per conferirle delle proprietà che quindi sono quelle, evidentemente, di catturare tutta la luce che la colpisce. Esattamente. Loro catturano non solo il visibile, ma anche la parte infrarossa, che è quella che crea l'effetto termico. Certo, circa metà della luce solare in realtà è infrarossa, non la vediamo, ma porta calore. Ecco, senta, che vantaggi offrono, come potrebbero essere utilizzati questi nanofluidi super neri, diciamo così? Questi offrono il vantaggio che in uno strato molto piccolo di acqua consentono di assorbire tutta l'energia luminosa che arriva. Quanto piccolo? Parliamo di un centimetro e mezzo, due centimetri. Quindi si può pensare di creare una nuova generazione di pannelli per collettori solari termici. Molto semplici, perché basta avere una lamina d'acqua con nanoparticelle dentro, ovviamente, che scorre, e un vetro che serve a tenere dentro l'energia che è stata assorbita. Al posto dei sistemi attuali che invece prevedono tubicini, superfici di assorbimento metalliche, una cosa decisamente più complicata. Certo, perché attualmente se vogliamo scaldare l'acqua a 40-50 gradi, vabbè, non c'è problema, si fanno quei tubi in gomma, ma se vogliamo scaldarla a una temperatura che sia sufficiente per il riscaldamento di un condominio, dobbiamo arrivare a 80-90 gradi. Ecco che i sistemi attualmente in commercio sono costosi, perché prevedono l'impiego di rame, di rivestimenti selettivi con materiali brevettati, insomma. Invece fare i collettori solari termici con questi nanofluidi potrebbe drasticamente ridurre i costi per metro quadro. Ecco, voi avete anche uno di questi sistemi sul tetto che tra l'altro ha una sua peculiarità. Certamente. Allora, questo principio è stato già studiato negli ultimi 10 anni, però ancora nessuno l'aveva provato in condizioni reali. E sul tetto del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Padova, il professor Del Colle è responsabile, ma l'assegnista che ha fatto tutto questo si chiama Matteo Bortolato, e ci tengo a dirlo, ecco, è installato un sistema a concentrazione che concentra i raggi solari sopra un pannello piano di questo tipo. Ecco, questo perché state sperimentando anche temperature superiori, no, ai 100 gradi. Certo, noi vogliamo andare anche oltre, si può andare anche oltre ovviamente, si può arrivare sui 150-200 gradi, per applicazioni quindi anche diverse. Produzione di vapore, cose di questo genere. Senta, verrebbe da dire che è così facile, ci si domanda perché non è stato fatto prima, tutto sommato. L'elemento chiave di tutto questo è la presenza di queste nanopolveri. Fino a pochi anni fa queste non c'erano o non erano studiate, le loro proprietà ottiche non si conoscevano. lei tenga presente che 50 grammi per metro cubo sono 50 ppm, non cambiano le proprietà dell'acqua per quanto riguarda il pompaggio, la viscosità, la trasmissione termica. E quindi appunto è proprio facile, nel senso si può tenere tutto il resto dell'impianto uguale a quello che è, non c'è bisogno di inventarsi niente. Esattamente, abbassando drasticamente il costo del pannello. Cosa manca per arrivare all'applicazione industriale? Sì, manca, c'è ancora un dettaglio da sistemare, cioè queste, ovviamente queste polveri devono essere mantenute in sospensione, però questo è veramente un dettaglio tecnologico che se ci fosse un interesse elevato in questa applicazione si potrebbe risolvere nel giro di pochi mesi, secondo il mio modo di vedere. Va bene, grazie professor Alberto Bertucco. La ringrazio dell'opportunità di presentare le nostre ricerche. Va bene, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento come sempre. A domani, buona serata a voi tutti.